Siamo con Davide Dose, direttore di Parterre Farnesina Social Garden, cominciato il 14 giugno fino al 5 agosto. Davide, benvenuto. Ciao, grazie. Eccoci. Raccontiamo di questa realtà? Sì, allora, Farnesina Social Garden, il nostro parterre è questo spazio culturale, la sua primissima edizione, il suo debutto, tra Ponte Milvio e lo Stadio Olimpico. In questo bel parco di 3.000 metri quadri di verde, dove lo vorremo per tutta questa estate 2018, degli eventi culturali, dalla musica di vario tipo, dalla classica al jazz al rock, fino al teatro, al cinema. È uno spazio che appunto vuole proporre una proposta a 360 gradi, cose per i più giovani, cose per un pubblico più adulto, con particolare attenzione alla fascia degli studenti, e che in qualche maniera vuole raccontare una proposta culturale un pochino diversa rispetto a quello che magari spesso in quella zona di Roma viene proposto. Siamo appena partiti, il tempo ci sta assistendo per adesso, anche se ogni giorno ci sta un po' spaventare, ma questo è, diciamo, normale per l'estate. Tra le varie cose anche cinema all'aperto, infatti ieri sera abbiamo fatto una bella proiezione di Smetto quando voglio, insieme alla presenza di Cidde Sibilia e di Edoardo Leo, che ci hanno raccontato questo, dal loro punto di vista, questo film che ha un po' cambiato anche la commedia del cinema italiano. E niente, continueremo per tutta l'estate con questa programmazione abbastanza variegata. Davide, come ha avuto origine tutto? Come nasce il parterre? Allora, Parterre è un progetto di Arte 2O, che è un'associazione culturale che da vari anni a Roma propone appunto musica e cose simili in varie forme, insieme ad Alcazar Live, che è il vecchio cinema di Trastevere, che da un anno e mezzo è stato preso in mano e ristrutturato da Luca Carinci, che adesso è diventato un club che propone musica soul, jazz, con artisti da tutto il mondo. E tutta questa operazione è con l'interesse e il contributo della Regione Lazio, di Lazio Adiso, di Officina Pasolini. Infatti lì, in quel luogo, durante l'inverno, c'è questa scuola di alta formazione artistica che si chiama Officina Pasolini, e che propone dei corsi, diciamo, quasi universitari di discipline artistiche, di teatro, canzone, cinema. Quindi questo progetto estivo, in qualche maniera, è una prosecuzione dell'attività che viene fatta lì durante l'inverno. Come sono organizzate le giornate? Da che ora si parte e quali sono gli spazi? Sì, allora, apriamo il villaggio, il social garden apre verso le 6.30, anche perché c'è una bellissima struttura dove poter fare un aperitivo, anche fare un po' l'aria aperta, socializzare. Abbiamo appunto dei punti bar curati dall'Alcazar, e abbiamo anche una selezione molto interessante di track food scelti appositamente, tra cui pastella, che sono dei fritti gourmet presenti anche al Mercato Centrale, Raro, la Dapolpè, Gypsy Market con il sushi. Quindi una bella selezione anche di food per passare una piacevole serata, un aperitivo all'aria aperta. E quindi dalle 7.30 si apre, verso le 8 inizia sempre un po' di musica, diciamo, al tramonto. Poi ci sono gli eventi della sera, diciamo il cinema, il teatro, gli eventi di jazz sono alle 21.30, i concerti del venerdì e del sabato invece sono ovviamente un pochino dopo. Spesso dopo rimane anche a ballare con qualche DJ set, insomma, questo proprio per intrattenere anche il pubblico più giovane, che dopo il concerto ovviamente vuole anche rimanere a passare la serata lì. Ok, senti, tutti i giorni dal lunedì alla domenica? Tutti i giorni dal lunedì alla domenica, adesso andremo fino al 5 agosto, poi non è escluso che magari ci troviamo un pochino anche a settembre, adesso vediamo un po' come va e come parte questa nostra avventura, ecco. Benissimo, allora ricordiamo Parterre Farnesina Social Garden, 14 giugno, 5 agosto, e Davide Dose nel direttore artistico. Davide, un saluto, un ringraziamento e un in bocca al lupo. Grazie a voi, vi aspettiamo tutti al parterre. Ciao. Ciao.